chi ci sarebbe stato da inserire? Perché io ho letto con attenzione i tuoi 23 ideali usciti sul nuovo numero del Guerin Sportivo in edicola da ieri. Il Guerino, sapete, che è diventato mensile, non è più un settimanale, ma non per questo ha perso il suo fascino e il suo spirito di bandiera. E insomma, 3-4 nomi che non figurano in questo elenco nel tuo ci sono, e mi ha particolarmente colpito Miccoli, perché poi introduce un altro discorso. Sì, introduce il discorso del talento. In effetti manca un numero 10 come lo si intendeva da giovane, cioè come non tanto come una seconda punta quanto come un attaccante capace di sprigionare giocate di fantasia. Io capisco che non ci possa essere Del Piero, data la stagione, dati gli anni. Capisco anche, io ho scritto che non l'avrei convocato, che non ci sia Totti, non tanto perché si è chiamato fuori dalla nazionale, l'ultima partita risale alla finale di Berlino, 9 luglio 2006, anche Lippi, se vogliamo, appunto, si è chiamato fuori e poi è rientrato, ma proprio perché il suo rendimento sul piano fisico non è stato all'altezza delle esigenze, secondo me. Però è chiaro che uno fra Cassano e Miccoli l'avrei chiamato, e io ho scelto Miccoli, anche se poi neanche a farla apposta, appena scelto, si è fatto male. Però ecco, ci manca un po' di fantasia, che era sempre stata la nostra caratteristica. Nello stesso tempo, Gigi, sono rimasto favorevolmente impressionato da una mossa di Lippi, che nonostante le traversie personali e familiari che ha attraversato, nonostante appunto il terreno che per questo ha perso, ci sia Giuseppe Rossi.